alle 10, a Talino, ultimamente non c'è mai nessuno, dove sei? Come mai? Come invece troppo? Vabbè, un canale di morti. Ciao Claudio. Senta che conviene, era un po' non ti sentivo, adesso provate a girare a vedere se c'era qualcuno, dai. Chi siamo tutti i giorni qua? Anche Massimiliano volte entra. Non giro, ma io stavo finendo presto, questi giorni non stavo entrando, anzi giravo e non c'era nessuno, a dire la verità. Non giro tardi, non ho provato a pippare, capa. Come? Già pippa, lo sai tu, a posto. Tutto a posto, niente in ordine, Claudio, era battaglia di Urichina e piano piano rientrando me ne a parcheggiare. Oh, niente, Gino, ma che butta la verità? Molto tutto il giorno, stava piovendo, anche adesso non la stavo rientrando, ho mollato l'ingresso di Sassari. Ok, ancora di ultimo. Che dico? Lì l'ha data di più, ma poca roba ha fatto però. Tutti hanno fatto abbastanza, anche la strada adesso stava piovendo ancora con questo. No, la picciattina andava leggera. Sempre lavoro a casa lavoro, ma te te? Dove vuoi andare? Dove vuoi uscire questa cosa, fa cosa? Sono andato né sabato né domenica, neanche a fotocopio, se nulla. Io lavoro domenica mattina, quindi sabato ma sono rimasto a casa. Cosa? E allora, mi tocca un sabato sì, una no, una domenica sì, una no. E se i festivi sono 3 settimane, lì devo lavorare, venerdì anche lavorare. Ah, su quello non c'è piove, quindi io già sicuro. Però, ma se mi tocca il turno devo farli, non c'è niente da fare. Almeno se per il sicuro, ma è sicuro che tu devi travagliare, Claudio. Appunto, è tutto un giro, eh. È sicuro, ma è sicuro che devi travagliare. Ma dove sei? Vicinamente Tronco Reale, corsia Città di Ferro. Ah, quindi sto andando a fermare con la bestia. Così dico, spero che abbiamo finito, diciamo, alle 10 minuti strada e molliamo la tavola. Bene, ma era, bene, Massimino, ma tu ci vado a 5 metri, oggi mi ha dato gioco, sei uscito di su. Dico che era tutta la difendeva, chissà se avete travagliato. No, fino a poco fa che eravamo al telefono assieme, dai, ha finito le 5 metri, sarà ovviamente. E come mai? Stava piovendo lì, era travagliando come a pesci. Che cavolo, Bolo, ci faceva travagli, cosa arriva? Ah, così è. Oddio, sì. Perché quando erano lì nella strada di Olmedo, quando pioveva, non lavoravano. Dipende dal lavoro che devi fare, Clay. In base al lavoro che devi fare, magari ti permette di lavorare secondo materiale, fa lavorare. Si conferma, è proprio così. Ho già meno detto che ci vado 5 e mezza, capito? Eravamo domenica mattina, ci abbiamo preso il caffè assieme, mi ha detto che usciva a quell'ora. Andrà parcheggiato, eh? No, pensavo che pudessi accelerare. No, manca molto carro. Beh, allora, aspettiamo. Io non vedo, sono abbignato. Vabbè, mi manda un sms. E lui, allora, mando uno a Massimino a vedere se in furgone rientrenti. Gli mando un messaggio su WhatsApp a vedere se rientrenti. Se ne sai. Ma perché dove? Lontano da qua. Ah, tu l'hai. Beh, tu la ci vuole mezzo la buona. Io per male sono andato in piano. Mi stava bagnata, capito? I libri miei per uscire è pericoloso questa. Infatti. Bisogna andare in piano, sennò così. Ciao, questa. Grazie per essere entrato a salutare, dai. Ci aggiorniamo. Gappa, buona giornata anche a te. Quale pulpito? Canale di morti a noi? Morto sei tu, non ti fai più sentire. Figlio, ma non mi sento se c'è la regna, non mi sento più. Ma non è dire, va. Non è dire, vabbè, certo, se non senti a me vuol dire che quell'antenna è morta. Figlio, no, la morta, sono morto io, che l'antenna, l'antenna è bella qui. Ho capito, ma non sentirai gli altri, Massimo, a me già mi senti, quindi lì sono sempre. E i giorni in ritardo, entro sul tardi, però oggi sono arrivato presto perché stava piovendo e quindi sono tutta la sera in radio, non c'è mai nessuno. Non si lamentano, se non c'è nessuno, e tu se no entrami. Ma era un ascolto, ero 45, ero linea di massima ci siamo sempre. Sono seduto qua un po' al computer ascoltando la radio, poi se chiama qualcuno rispondo. Se non so che non rispondo a nessuno, già chiamo io. Beh, sistemato il paracchino. Non ce l'ho più quello. Non ce l'hai più? Massimiliano, non te l'avete? No, non me l'ha mai detto nessuno. Cos'hai fatto? Cambio? O gliel'hai lasciato? Ho lasciato e mi ha consumato, un 48. Ah, bello. Cosa la faceva sempre lui? Se fosse un giorno il nostro vizio è già fatto. Adesso mi sa che anzi dopo mi sa che ho messo il suo diario. Così lo fa vedere a tutti. Vedo quanto trovo la bestiolina, si è fatto bene, ma deve essere fatto bene, però no, l'altro giorno ne ho sentito uno che stanno vendendo qua a Sassari, ma di quelle cagate che più cagate non viene bene a dirlo, capito? Deve essere sentato più un lavatore, non va nulla, pare un microfono con l'ecco e buco, tanto quello che avevo io l'avevo preso al Gigi, ho fatto un lavatore effetto di copro, sono una bomba. Chiama forte, capito? Si è fatto bene. Quelli che chiama forte costano un bacio di soldi. Io ho operato fino a di 450 euro, ho operato, ma fatto bene, però fatto bene veramente. Mi hai capito, sembra che stai soffrendo un po' troppo. E Giuseppe, io continuo a ribadire che ce ne fosse gente come te alla tua età, quindi altro non ti posso dire, guarda, io ne ho visto poca di gente attiva come sei tu alla tua età. Purtroppo devi anche capire che non sei più un ragazzino tutto lì. E vedi tu, se vuoi fare il centrometrista, non ho capito, è chiaro che devi fermare, non è che puoi fare tutta una tirata, però ti ribadisco che alla tua età fare quello che fai tu e muoverti come ti muovi tu, non è che ce ne sono tanti, capito? Quindi questo devi sapere, perciò stai sereno e tranquillo, vai, vai. L'amico del cagnetto? Non l'ho più visto, no Giuseppe, l'ho detto, non l'ho più visto, evidentemente non c'ha più il cane, non l'ho più visto, prima la sera lo vedevo, capito, adesso non l'ho più visto, sicuramente, sicuramente, perché l'ultima volta che l'avevo visto mi aveva detto doveva andare a Punta Vizzano, poi non so se è ancora lì, però ti ripeto, io non l'ho più visto, prima la sera mi portavo il cane, ci vedevamo. Adesso o non c'ha più il cane oppure non c'è lui. Gianfranco? Gianfranco il tuo ex collega? E già entra ogni tanto, ma anche lui non c'ha antenna, capito? Non c'ha antenna e quindi si fa sentire così ogni tanto. Lo so, lo so. Per fare radio ci vogliono le antenne, senza le antenne non te le c'è il radio e non le puoi usare. È proprio vero, capito? Questo te lo dice uno che per 20 anni è rimasto senza antenne sul tetto, non faceva nessuna attività. Poi finalmente mi sono deciso a mettere le antenne, attività non le faccio lo stesso però. Sì, 25-28 metri. 25-28 metri, però io ho un commutatore elettronico a relè, quindi mi cambia le antenne tranquillamente, senza problemi. È alimentato. È un commutatore d'antenna americano, capito? E vabbè, però le antenne sono lì e io sono qua, pochissima attività, quando ne ho voglia ogni tanto faccio qualcosa, ma non è che abbia più non l'ho mai avuta veramente la passione, però adesso è proprio calata del tutto, tornerà, vai, va lì. Vabbè, e così è Giuseppe, cosa vuoi che dica? Le passioni vengono e vanno, magari adesso non c'è, poi davanti magari mi ritorna e quindi faccio tutto per poter fare quello che mi pare piace, non è quello il problema. Io volevo andare a trattare avanti. E io ero buonasera. Ciao Natali, buonasera. Sono Giuseppe Valerio, mi arriva al telefono. Io Giuseppe non lo sento perché c'ho quello rumore là. Vabbè. Quindi Giuseppe, Natalino ti saluta ma non ti sente perché c'è un rumoraccio che le fa battimento. Allora Natalino, ha chiamato poco fa ma non mi ha risposto nessuno, mi ha risposto Valerio Larghi. Sì, ma va bene, lo stesso. Io non c'ero che stavo facendo una commissione, sono rientrato adesso. Ma così. Va bene, oggi giornata fresca, sta benissimo, non sta piovendo più. Ancora domani questa giornata così, poi mercoledì vorrà essere 30 gradi. Ma al meglio tutti i giorni così. E Marcolino Condor non è entrato. Non ho sentito nessuno, non è lì. Tutti nascosti sono. Cosa vuol dire? Non so che dirti. Proprio zero sotto zero. Vediamo se Valerio ha finito il telefono, non Valerio ancora il telefono. Spero ne approfitto adesso le 6:30 da mangiare il cane, un secondo. Ehi. Eccomi qua. pace, cazzo. Cosa? Tutto pace. Sì, alla fine non c'è più cosa dire di far radio, cazzo. Cosa dire? Non c'è più cosa dire. Sì, allora ci buttiamo tutto via, come va bene l'altro giorno. Ecco tutto, via, e c'è una dama, allora non c'è più preoccupazione di niente. Non c'è la cannuta, allora gamba, vedi, cos'è che non hai, non sai più cosa dire, cosa raccontare, cosa fare, e talmente oramai avremmo di tutto, cosa vedi ancora? Ai ai ai ai, e Gianni non si è sentito neanche Gianni. Stavo medicando mia moglie. Stavo mettendo a posto il guinzaglio del cane che delle pistelle in giro. Quanto dicendo? Stavo mettendo a posto il guinzaglio nuovo del cane che lo sta portando in giro mia moglie. Già hai preso la pettorina? No, il guinzaglio, la pettorina ce l'ha già, però non mi ritrovo. Anche mia moglie non ve la già, non ve ne ha già cava, e se no la faccia a mille offese. No, no, ho capito. Vabbè, bisogna abituarlo a, bisogna non metterlo bene. Sì, ma lui non gliela sta a sganciare, capito la cosa? Se tu gliela lasci, la fa a 2000 e un pezzo, quel cane. Poi me ne faccio 2 o 4 bettoline. Tu sei come? Con un pizzo toccati di tutti gli anni già radica, tu la sei ai sorpreditti, avrà attaccare un muro. E non è successo qua. Ma Filippo, come vede le porte aperte se ne sei sopra il letto? Tu di la robo, l'aveva mai fatto. Chiudi le porte, se non si sono abituato a voi, c'è sempre in antauretto. Oh, 3 cucce c'ha, 3 lettini c'ha. Non ho capito. E se non esce alcun peso? No. Io ancora oggi sul brandino suo non ci vuole andare, figurati, perché lui vuole stare vicino a me. Ho capito, lui c'ha il lettino suo vicino al salone, un altro lettino c'era vicino a noi in camera da letto, un altro lettino è qua, tanto va giù tutta la casa via dei lettini. E tra un po' con la sezione bulca Mario. Sì, magando, sezione bulca. Immaginate che l'anno scorso non andavo al mare per il cane, non sono andato al mare per il cane, immagina già di tu. E io se me lo immagino. Tu diavolo, però loro già andavano. Che mi dici? Sei così Giammani? Adesso vediamo. Siamo a un buon punto, l'altro è quasi finito. I mani sono pronti, sono col bagno. Vediamo. Ci arriva l'adattamento, io penso che ce la facciamo a andarsene. E la dici se si vuole capire un po' di si piace, che è come un figliolo di Sugani. Io lo so che mi dispiace, me la rompo in balle però. Ah, già bravo Filippo Covaretti. Ah, sono pieno Massimiliano e ti tira una bella sussa. No, va, il cane muso, va. E cucendiemi, arreci a cadie. Ehi, non lo so se sta parlando di te. Tutto guasto, ciccione di merda. Ma non è vero, che bello. Che bello lui, Filippo. Adesso ti manda Massimiliano così gioccatemi. Sì, Massimiliano mi aveva un telefono fa tutti. Non c'ha luce ai punti, capito? E quindi non poteva accendere neanche la radio. È un casotto, Ecco come ti intendi Massimiliano, si rigira lo sangue. No, ma che? È andata pure una, se c'è voce in macchina. Ah no. Immagina che conosce la macchina, il rumore della macchina, Massimiliano, immagina già di tu. Quando viene qua, perché c'è il parcheggio sotto, sta divisione la Iana, non vorrò niente, apri la Iana, lo va incontro, capito? Lo fa solo con quelli che conosce veramente. Infatti, è che lui io che la sua guarda. Allora, vai l'aspetta nelle scale, ma lì tu lo butti, vero ciccione, vieni qua, ma è lo stai facendo. Niente picchioni. Ma chi te lo butti però? Dovresti te ricare Massimiliano a te un ascensore. montagna. Sì, te le gire e si tira via la palla. Io non arrivo con le scarpe per i fotonisti che provano il poggioro, ma le tolgo. Le ho tutte puntate. Quanto è bello il suo cane. Non ha denti, ve l'ha detto. La lentiera rimancherà, ve l'ha detto. E vabbè. Io quando vuole lui è bravo, ma è sempre, quando esce è sempre affariato. Sempre affariato, lui è io. Cosa stai guardando? Non c'è Massimiliano, è Natalino che sta parlando. Lo senti? Ma stai ascoltando? Sì. Vedi. Vedi che non è Massimiliano. Natalino, vedi. Ti prendo tutto a schiaffi, ti prendo quando ti trovo, Filippo. Io cosa ti faccio? Ma scusami. A voi non è Massimiliano. Dio, ma scusami. Stava andando a Iana a vedermi, si tende anche a muovere di macchina a parte la Iana. Io lo dico anche subito, sa, si va a vista nella lecce. E io non le avvista le orecchie, no, le solleva un po'. Le solleva un po'. Non le avvista le orecchie, no? E questi no. Non le avvista la lecce, io proprio dritti dritti, capito? Lo francese sì, ma non solo rigore, le lecce dritti dritti. No. Il suo è più bello, lo do io. Sono più belli, so. Allora, Mario c'è anche un bulldog francese, lo so. Arturo si chiama. Infatti io lo guardo. Vabbè Arturo, vabbè. Ah, se c'è Arturo, va. Ma Arturo. Arturo. Non vuoi vedere acciaio. A chi sagare un prigione, tu di dici si è drusagare. Ehi, conosce tutti i nomi dei cani. Uno che gioca con lui, lo stesso di bulldog francese. Si chiama, come si chiama là quel cane? Quello nero. E che Filippo guarda dal poggioro. Ehi, come si chiama? Ettore. Vai a vedere se c'è Ettore, vai. Ettore già picca la ringhiera, poi da con capo pure, poi ci vede. Ecco, dai, sono intelligenti, insomma. Fai così. Non si stacca, capito, perché si mette con le zampe sopra il coso della ringhiera. E si stacca che ci giochi, lo pesce. E allora ce li farà subito. E Romeo sta saldinando le vacone, si chiede quasi una iatta. Perché si comporta pure come un cazzo, non è che è un bel agile, sopra la finestra è salito, mi dà solo. Ma tu è agile, dico già, questo è già troppo che salta, no, quando si mette dritto, si stanca subito, capito, e se ne va, lo c'è il peso, lo mette tutto dietro, quindi si scende, poi avanti forse di monitorare la dieta, la gita. Lo fa una gara adesso. E cosa li fanno fare a questi qui nella gara? A questi cani così? Pesi, dai, forza, tiro di forza. Tiro di forza con loro inglesi. Con loro inglesi, i pitbull, e poi cosa c'è? I cani corso. E poi fa tanto secondo me. Fino a 80, adesso mi scioperà gli 80. Sì, via. È un trattore di sogno. E io. Cosa dico, sicuro lì? Lui gioca con uno, il cane mio, c'ha un amichetto, no? Che è più piccolo di lui di età, però che se ne va a tre, a che è un pizzico. Così, guarda, non sono grande di guardi, ma quanto bello. Oh, lui già ne ha, beh, no, amichetti, però sono vecchietti, mi c'è un pizzico vecchio, femmina. Non è che ci gioca, però stanno vicino, non si capisce. Con quelli giovani lui è diventoso, quelli giovani non li può vedere, ma se ne accorge quando un cane già vecchio, anziano, capito? E adesso le fai 100 kg. I 100 e 120 ci sono, ho visto. Cazzo, io ho voluto vedere. Invece devo facile giro, un carrozzino, sono quei carrozzini, sono di legno, diciamo, lo leggero, metto le pesi sopra, metto le pesi, la pettorina, glielo aggancio e deve tirare. Deve tirare 25 metri. Sì, che è vero, vivibile, chi sei? Dire, se ne l'ha persa la favola, l'altra volta ne l'ha persa addirittura dove è passato. Troppo forte partito così. Allora, troppo veloce, aveva fatto due andaretto, aveva fatto qualche piano, ha tirato tutti. Però c'è anche il tempo di tiro, e lui ha fatto come pare pochi secondi dopo il primo. Cazzo. Ma già quello lì vedrai che già solo vince. Ah, perché si distrae, c'è un guaccio, si distrae troppo, si distrae troppo. Perché ci sono i giudici di gara davanti. L'istruttore rimane al fianco, capito? Al fianco suo. Vedi che vede l'istruttore, tanto vedo, vede l'istruttore che tu passi. E quindi poi lui vede che è partito l'altro, allora lo può rimbatto, però ti frega qualche secondo sempre, no? Ti curri meglio. Curru, ma sai che ti dà burri? No, si abbraccia tutto, tocca dentro lui e rimane mamma zinga male. Mio tira di petto, ho fatto un bel forte di petto. È un bel forte, molto forte di petto. Roscio, proprio robusto. Un bel allenato. Vabbè. Dove te l'avevo detto, l'avevo venuto a tre. Ehi, Gianni, me l'ha detto, chi me l'ha detto? Gianni me l'aveva detto. Che ne ha venduto già tre, cazzo, santo, l'aveva venduti. A 1.300 li ha venduti. 1.300. Allora, 1.500, però siccome questo è un suo amico, c'ha un canile a Oristano, in bulldog inglese e francese. E quindi per fare guadagnare anche qualcosa a lui, capito? Ne è venuto a 1.300 e lui è venuto a 1.500. Cari, sono cari, Filippo ha portato 1.300 euro, capito? Cari, sono loro inglesi, sono cari, un bel, andavano anche a 2000, 2002, 2005, dipende, e lui c'è tutto quello bianco e l'altro, adesso però, c'è già altri contatti, quindi sicuramente vende anche qui. Filippo non vuole, cazzo. Già la paga di 1.000 euro. Sì. Ciao Luca, no, Filippo non è cuocomane, Natalino è cuocomane. Ah, infatti, ciao Claudio, Natalino. Ho parlato dopo che non me ne sono accorto, che stava parlando lui. Niente, mi sono qua in ascolto, adesso ti parlo un telefono, là, in ascolto. Filippo, ma te lo presenta Luca, che bello denarizzo mi. Tutte le scarpe li devi mangiare. Non ho mai visto Filippo a Luca. Ah, Luca gli era amato dei cani. E quello che vede spesso è Massimiliano, quindi conosce pure la macchina, ma se vede a Luca un paio di voci, vedi che se ne passano macchini. Diventa cuocomane. Allora, cuocomane diventa come Luca. Lui è figani, se Dio è, no, io ho appoggiato vicino a Iana, ci tende a paura, e ancora ci sta mezz'ora, ma quanto è nato, sono fresco, capito? E dopo io è sempre sdraiato per terra, al fresco, soprattutto sotto le finestre. Sì, ma oggi già sta bene quando lo porti. E speriamo che non piova, capito? E se mi la strada com'è? Sì, ancora un pochino bagnato, non portato nell'erba, porto giù nella salaria, porto la palettina oggi, perché nell'erba è bagnata, poi tocca a lavare tutte le zampe, tutte le cose, perché lui quando fa bisogno, no? È una traiata, tappa tutto, se va a beffa. Infatti. No, il mio è tranquillo. Io butto dal marciapiede la fa. Io pido là, c'ho le bustine, no? Mi cambio la roba, già perché lui tenta di scavare, ma la mia marciapiede non puoi scavare. Infatti, non faccio Filippo, non fa la marciapiede, fa solo più piccolo. Lui o erba o terra, capito? Abituato così, non fa la marciapiede, non l'ho mai fatta. Sempre nella terra o nell'erba, poi c'è il giardino, capito? A volte lo porto qua nel nostro, a volte nel giardino che c'è. medici di Puglieggia, con quei biati che andrò molti. Invece qua dentro non mollo, perché se vede qualcuno, anda nel rincannato, la salia, ma uno tutti i pantaloni niente l'ha fatto. Certo che a Bevorsi va avanti così, è mostruoso quel cane. Naturalmente comincia che abbiamo visto lo sportello subito a Trento. Ah no, allora andare a sportello e andare. E devo andare, perché c'è una bella macchina, capito? Perché c'è un po' abituato alla macchina. No, è anche perché poi, mamma, capito, devi andare in terra e si affianca il pantalone e ti vado a messo. Quindi non lo tengo a guinzaglio io. Però se vede qualcuno che conosce che lo chiama, pure mi deve ricannato, a uno mi sovra la vita di fronte a me, lo conosce, era giù, era stato a guinzaglio, l'ha chiamato, perché è nato, ha fatto tutte le mattine, e non fa niente, c'è la lavatrice, è contento tutto. Te credo. Il mio cazzo è troppo dove a chirurgo senza guinzaglio io, e lui mi aspetta se aspetta che arrivo io, non è che si allontana, è troppo dopo. Io dicevo il contrario, dico se lei tu di guinzaglio si mette a correre, parte, ma non se ne va e rimane però non le palle, capito? Era uno che ha caricato di spesa dalla macchina, legato un po' a fare un vecchio. Ha preso la spesa e l'ha portata nel portone, ha avventurato per essere bruciato con cofano. Allora, e tu cosa ci fai qua? Ho detto scusa, ha visto il cofano a pezzo, sai, a me non fa niente, anche tu di toccare, non è che tu lo conoscono tutti. E poi io fare una terra, una terra nevaria. Non mai messo una corsa sicuro, il cofano rimane dentro, poi chi vi rimane? Me lo aspetta sai a me. È che quelli sono cani troppo impegnativi, sono, gas. Sì, ma già detto, sono anche cani, solo che è troppo impegnativo, Filippo. Però penso ci devi stare in realtà lì, non puoi mangiare niente, devi mangiare roba sua tu. Se avessi mangiato quello che mangio io, allora è diverso, ma è molto costoso. Parecchio. E bisogna stare molto attenti, comunque. Fino adesso ho già 5 anni, mi Filippo, se avessi va già mano. No, già lo so che è grande. Il mio gli va un anno e 6 mesi, o 5 mesi gli va. Un anno e 6 mesi deve. È Filippo grande. Sono già un bel po', soffitto, dove prima c'era la madre, quindi la voce, quando ho provato la voce aveva già quasi un anno avrebbe. Quella lì dove? Guarda, tra poco li tende giù la gara, e con quella vicino alla porta, lascia un po' l'aria, la voce già l'aria, aspettando adesso le 7:05 ancora presto. Qua, il problema di questo cane è che esce tardi, capito? Non c'è Cristo a portarlo a letto, non portano tutti i cani la mattina, lui prima alle 9:30 alle 10 non esce, non vuole uscire proprio, capito? Non pensa che esce all'otto, 7:30, 8 la sera, rimane fino alle 9:30 alle 10 che lui no, sta con il gatto, non c'è Cristo di alzarlo. Quando si stufa, perché vuole uscire, si alza, allora mia moglie lo porta, ma sono già dei decimi. Quindi non è un cane che dà fastidio, capito? No, il mio vuole uscire, cazzo. Se io ho posato il mio brandino, come sa pure il mio amico, va, che vuoi uscire? Aspetta, poi c'è un telefono. Ora, c'è qualcuno su bici? Io dico di sì. E manco male, mi curve, non so qui se ti ha trovato. Stavo parlando con Claudio, stavo parlando. Un attimo che ho al telefono. Ah no, io ci sono adesso, mi sono fatto una drumita, taglio, ma con la brida così. Ah va. Sì, me l'ho reclusato, l'ho portato. Gli ho fatto tutta la tirata. Mi sono fatto e sono andato là. Io ho capito. Devi chiamarmi anche prima. E così almeno andavamo e portavamo il cane prima e tutto. E allora per le 5 mi dovete andare a per le 5. Allora, tanti di Burueo. Cazzo. sono tutti i dubbi, sai, quando fanno fare cazzo poco, una cosa paga, a paga, cazzo. No, c'è la visita del solo, a me, quando avevo con la diarrea, cosa che l'ha guardato, l'ha controllato giù, trovato, l'ha visitato, e mi ha detto, vedi a queste pastiglie, sono a uso umano, ma si possono dare anche ai cani. E mi ha dato le pastiglie, date queste pastiglie, non le ha più scritto. Sì, infatti, quando ho fatto il tuo ufficio veterinario, guarda, ma quando andavo in figlio, non fa pagare il baggio, la mia guarda in figlio. Mi ricordo, mi è costato un sacco di soldi quel cane, altro che il cane col pedigree ci usciva. Come la mia, con un pedigree e lui faceva affatti, no? A me mi ha detto che era già sterminato il cane, che cazzo l'ho dovuto sterminare io, poi erano venuti questi parassiti che erano venuti, poverino, e ogni sabato dovevo andare via a fare il sabuna. Sbrogliata, proverità, ma guarda questo qui è abbastanza umano, quello che gli ha visto stare oggi, quello lì è abbastanza in gamba. Se tengo ma che quella signora dai ci ha fatto passare. Sì, infatti, almeno siamo potuti andare dove dovevamo andare. Infatti, quella lì lavorava, sta fra. Sì. Quell'altro che cosa doveva fare? Non è mezzo mancante. Non è che doveva andare via a farsi il vaccino. No, che doveva ritirare una lastra che gliel'hanno investito il cucciolo. Ah, ho capito. Io metto su un altro. Sì, infatti. Invece di prova con i sluisi. E vabbè. Oia, che sta dolori, mamma mia. Siamo a te braccia dolori, cazzo. Poi oggi io non ne ho usufruito, stasera loro non arrivano. C'era anche gente che usciva alle 4, alle 5. E sono usciti tutti alle 2 stasera. Io invece devo fare più la sera alle 2 e ho fatto sera alle 2. Infatti dico che a questo ora sono tutti avvisi, tutti grandi. Tutti sono grandi nei negozi. Tutti in abito, tutti tirati al lustro, alla festa. Vabbè, a salvezza, non lo sa. No, e loro ci tengono molto a questa festa. Ci tengono molto veramente, anche perché è una festa sacra, è una festa dei martiri, di turritani, ci tengono particolarmente, c'è chi fa i butti, eccetera. Io lo trovo da mio fratello, è di Murugine a me, e la chiama ne ha questa manna da Ghissu. E c'è qualcuno come di Gianni c'è anche, eh? Io, pure Lucrezia, mi sa. Parla con Muro, eh? Parla con Muro? O la Talì? Vabbè, insomma sono un po' di soldi sopra, eh. Tutto lavoro che ho fatto. Un PC fisso, si mancava tutto, quello di nuovo è che c'è la scheda madre, roba nuova lì, ci ho messo la ventola, ci ho messo la RAM, ci ho messo l'elettro DVD, ci ho messo l'hard disk, sai che ci ho speso sopra 120 euro di pezzi, e tu vedo questo computer, una schiccia, tutto, ci ho messo il sistema operativo, tutto aggiornato, e anche nuovo, un Acer. Infatti me lo sto vendendo, ho preso di tastiera, mouse senza fili, monitor, dovuto schermo piatto, 160 euro. Ma dual core come il mio, Dual core, ma tu la sei dividendo un computer è veloce, è micidiale, non me l'aspettavo, Sono c'è la canna cromata per la pistola mia. Luca, ma non prendi un S3? È tuo? Sì. Quanto ne puoi ricavare? Quanto lo posso dare? Sento io. No, è cazzo l'S4, quanto lo devo dare l'S4? Non lo so, magari lo regalo. Ah, un S3 vale, adesso come ne ho uno io anche già. Un S3 vale una settantina di euro. Non di più, ormai c'è l'S4, c'è l'S5, l'S5 è 100, 154 euro lo trovi. E vabbè, adesso me lo faccio riformare da Marco, poi se trovo qualche nuovo lo fai. Il mio gruppo mettilo, lo prendi subito. Perché intanto ce l'ho fermo, mi sono preso Huawei P10. Io la sto resettando uno P8, io ho cambiato la batteria adesso. Cazzo, può cambiarlo. All'inizio un po' ci pispicci perché è un po' difficile all'inizio, ma qui ci premi la mano è una cazzata. Già lo so. Se mio si accende, sa che tu chi dietro si accende. Si va un po', ecco, ricordo. Ci ho rientrato, ero al telefono, ciao già. Ciao Claudio. La piove? No, bussiamo ne ha fatto te la bussutore. Ma no, pisciattina lo vedo io, niente di che. Sì, a volte si ha fatto con le gocce grosse grosse. Oia. Questo andavino doveva fare acqua. Oia. Andare. Così capito, e adesso se le trovo, me lo vendo. Tanto ce l'ho buttato nel cassetto, la batteria è nuova, l'ho cambiata, tutto tanto. E se trovo la me l'ho riformato. Guarda, ah, già, io ho l'S2 sistemato, l'S3 devo cambiare il vetro, l'S4, un S5 volte se devo cambiare il vetro. L'S3 per cambiare il vetro quanto di prima? No, purtroppo l'S3 è assemblato il vetro, capito? È assemblato. Quindi com'è tutto il vetro, è il tuo rotto lo stesso. No, è perfetto, tu lo sai come tengo la cosa io, non c'è un graffietto, nulla. Se vuoi dire che c'è un graffietto, niente. Ah, ho capito. Nuovo, tu sa che messo sia nella copera che poi lo mettevo nel borsello, quindi lo tenevo solo quando squillava. Allora, già, ma il tuo il 10 è quello nuovo? Sì, il 10 live. Sì, sì, allora quello di là. Bello. Si accende con l'impronta, tu gli metti il dito dietro, si prende prima l'impronta, la memorizza, piano piano, prima prende una parte del dito, poi prende l'altra, poi alla fine quando è completo, li dà un chi, e tipo ti ha preso l'impronta. Se la potete fare quello, poi riconosce solo a tempo. Sì, sì, sì, sì, è quello lì. C'è quello, c'è quello. Io c'ho il 5, quello della Sancio. Fissa quando funziona. Tengo visto. Quando non funziona, tengo pagionato, c'è bigliello. Se l'occhio è andato in decadenza, eppure l'occhio erano ben buoni i telefoni. Io mi ricordo, mica gente la giocata ai 40 bici. Non mi ha funzionava sempre. No, io c'ho il Samsung. Sul Samsung io, però già va bene, funziona abbastanza bene, anche quello grande, quello visivo, c'è tutto. Quando non funziona, ci abbigliamo come le possiamo aprire anche lì. E infatti anche io ho quel Samsung G3, e non viene lì. E già vanno bene. Poi lo pensa che io, già l'ho pure comprato, c'era l'offerta nello stesso posto, da un euro. 100 euro di meno costava, ma chissà se volta poteva dirmi guarda che domani c'è l'offerta, poi te la domani. Niente, non ha detto nulla. Se si vuole cassare, no? Se si vuole... No, questo io che c'ho io l'ho pagato 180, lo c'è l'aria un sacco di nata. Lo sono un bel quelli. No, però no, non mi serve tanto, io per quello che lo uso, a me va bene. Più che sufficiente questo. Oi, Fabi! E beh, la miniera! Allora, buonasera, ciao, Gianni! E allora, famiglia, come va? Tutto ok? Sì, tutto bene. Benvenuti, Claudio! Sì, tutto bene. Lui, ieri, è pagata, e mi ha ancora un po', è mezza, mi faccio il cretino, prima che piova. Ancora domani c'è questo tempo così, poi da mercoledì di nuovo 30 gradi. Diciamo che già si sta bene così, che la mamma è andata per troppo caso, è una cosa che non si crede. Però lo va bene, un altro giorno ho dovuto anche andare a casa, ho dovuto accendere le cose, il condizionatore perché però a casa da voi. No, qua si sta benissimo già. Beh. Queste giornate così a me fresche vanno alla grande, capito? Alla grande. Però adesso che è piovuto, vedrai, domani se rimane così, poi mercoledì fa ancora più caldo. Oh, yeah. però per il tempo non possiamo cambiare mica, mi suggerirà di Gesù Cristo di tutto quello che gli altri. Papi Gesù Cristo già va bene così, non c'è più di vento, quindi sicuramente ho tutto fermo, sicuramente qualche passettina d'acqua davanti domani. Io avevo 4.000 alla moto e invece né oggi né domani sicuramente non ci posso andare in moto, mi tocca andare in macchina. Vabbè, siamo gli alloggi avanti. Natalini, a Valerio, sentito lei? Ehi, un attimo, sto leggendo una cosa. Leggi, leggi, vai Valerio. No, ti accompagnerà Natalino. Lo vengo io già, tre volte alla settimana, e ti accompagno io, bene va. Molto però, Ma io non mi accompagno già da adesso, non ho bisogno della 104, però la tariffa. E vabbè, ti può scherzare, no? Grazie a Dio, sì, e puoi camminare ancora, non ti preoccupare, però l'importante è che ci sia una svolta, dai. Ma ci vuoi accompagnare tu? Ma chi mi accompagna? La volontaria. Ah, tu vedi, facciamo il macinino, aspetta, lo controllo. E qui c'è già lì? No, me lo finisce domani. Bello. Va bene, dai. Ciao, va bene, siamo per così. Ci domani, quindi questo perfetto, va benissimo. Allora mando a Massimiliano. Sì, tu già parlati nel diario. Quella persona che era dove? Vabbè, tu mangi. Certo che sì, me l'ha preferito uno, di Valerio. Bello, caspita, bello compatto, l'eccezione, tu quando vai in televisione, no? Sì, come quello di Gigi, anche quello di Gigi è così. Anche lui dice, anche lui dice, mi ha fatto tutto il tempo, no? Ma no, però è vero, chi è? Che avanti, Torino. Eia, che si fa attendere? Mandando curriculum. Manda anche a me. Siamo così. Gappa. Oh già, dimmi qua. Ma solo in ore te l'hanno data, 9 tributiva. No, non lo chiarisce questo. Beh, comunque c'hai molte agevolazioni quando compri la macchina, un paio di libra, eccetera. Sì, quello lo so. Quanto è al 14? 4%. Scusa, 4%, sì, l'ha presa il mio collega, sì. Però non è retributiva, c'è un sacco di agevolazioni, le ore, ti puoi praticamente allontanare dal lavoro, insomma, tante cose puoi fare. E a te ti andavano a tesi già, vedi una frutta. Allora una gara non mandi, ia, sì, al 4%, c'è una macchina nuova, mio collega, ha pagato l'IVA al 4%, ha praticamente risparmiato un sacco di soldi. Massimiliano l'aveva già visto, vale. Non ti sei sbagliato. Perché lui ce l'ha nel sito, quello lì, capito? E allora? No, io no, io non so manco chi è, figurati. Va bene, che ne so, la parte che mi è riuscita, vado a mangiare, mi ha preso una purtroppo tardi, sto andando troppo tardi, sono in senso che ho in bocca, sto ancora in gola, non ho mangiato, devo mangiare prima, mi ha preso la ma male. Ok, dai, ci sentiamo domani, ciao. Va bene così, siamo tutti, buona serata, buon tutto, ci vediamo domani sera, sperando che non ci sia molto correndo, ok? Mi senta questo. Io vorrei, fatti sentire, dai, se scendi a fare qualche commissione a Sassari, fammelo sapere. Andiamo a prenderci un caffè. E io intanto mi preparo, sono già le 8.25, adesso mi preparo così mi sistemo il cane. E Perugia è andata. Perugia va bene, ci vediamo un po', vediamo un po'. Ok, ciao a tutti. Ciao, Ale. E beh, già finito la EDG. E vai già alla Roma, che cosa offrire di permessi, un sacco di roba. Ah, praticamente se fai 8 ore hai 24 ore di permessi. Lo sto dicendo, c'era mio collega, infatti lui esce lunedì e non ci viene, capito? Lunedì no, non c'è. Però lui ce l'ha per il padre che è invalido, si è a carrozzelle, capito? E quindi usufruisce lui. E non ci viene lunedì. E un sacco di agevolazioni c'hai, per accennare e fare, capito? Per dire, io oggi se fosse stato per me non sarei andato, perché vedete che mi si è riaperto, mi fa un bel male. Ho fatto tutto il giorno con questa piaga aperta, lavorando, guarda. Adesso così che c'è su ufficio. Oh via, yeah. Modalità. Ogni tanto si apre, cazzo. Si chiude e poi si riapre. Allora fanculo, non guarisce più questa cosa. Si è formato il callo, buonanotte. Sotto rimane vuoto, quindi questo callo quando si spacca si riapre. Via. Yeah. Ah, che bello questo coso. Mi ha fatto un video. Grazie. Presidente Radio Amatore Francesco Cosciga, Italia Oscar FGS, bellissimo, aspetta che me lo guardo questo video, a Francesco Cosciga trasmettendo. Hanno mandato il premio a Elio, l'hai visto? L'ho mandato? A Elio hanno dato il premio Francesco Cosciga. Sì, mi ho giovedì prima già. Era il conte che Francesco Cosciga aveva partecipato. Vediamo Martone. Se uno partecipa, te lo danno. Sì, vabbè, mi sono spesso male io, dai, già capito. Sono andato a ritirare qualcosa comunque, dai. Sì, sì, c'era il conte, se ne di Francesco Cosciga, siccome era l'animatore, hanno fatto il conte. Ha partecipato, chiaro, ti danno la pergamena, ti danno il diploma, no? Il diploma, io ho quelli dei, c'è tutti appesi, però sono tutti quelli dei murali, delle cose, dei cose, eccetera, eccetera. Lì non ho mai partecipato, non sono conosco altri di che cosa, sì. Se voglio contestato io. Vabbè, ti chiudono molto, devi dare un bel di... Praticamente devi stare sempre attaccato, eh. Natali non mi aveva un bel di pazienza, si faceva quelli di ferrovini, e poi ne ha fatto, Natali bello. Ehi, come se volevo trovare la taglia di Aneali, di Romini. No, io li facevo prima, poi mi siamo bloccati, non ci ho fatto un approccio, li ho tutti cominciati qua in stanza. Li ho fatti, capito? No, corretto, li ho tutti cominciati invece. Bene, già, 19:40, comunque me lo vedi, sono, io mi preparo, perché bella una giornata, si sta un po' chiudendo. Sì, allora, vi saluto anche io, vai, mi preparo anche io, se no poi se piove è un casino, mi sono pure a piedi, fatti un conto. E lui è già andato a farsi il giretto, vero e curti? Sì, sì. E ma tu sei signore, questo muri che la ricca. Eh no, la mattina la devo portare sempre io. Oggi me l'ha portato lei, in giro. Oh, al puffo. Ah, vabbè, dai, vi saluto che... Oh, sotto di scopa qua e poi me ne sto andando. Ciao, guarda. Ciao, ciao, ciao a tutti, dai. Buona continuazione. Sì, e che continuazione? Se ne sono andati tutti e vanno per più nessuno. Allora cosa ti dico me? Allora, ma parli c'è Germagno, ma poi se qualcuno vuole entrare, entri. Andà bene, Natali, fai bene. Ci sentiamo, là, ciao ciao. Ciao, ciao, dopo, Natali, io vado a portare il cane per il risalto, non ti preoccupare, ciao, dopo. Ciao, ciao. Tu stai fischiando, Natali? Se stavi fischiando tu e c'era uno che sta fischiando, mi sto preparando. No, non stavo fischiando io. Non te li hai mai incorniciati tu quelli da SWL? In campagna sono. Alla di Niri, gaffa, alla di Niri sono belli quelli. Io cosa me ne riparo? Ma ci occupava tutto là, i nocchi. Non posso fare un cavolo, qua. Facciamo cose che è meglio. Beh, certo non c'è il posto, ci avevi là, no? Ci avevi la tua stanza. Va bene, dai. Mi devo portare a Pippo e tu ritorno dopo. Rappacata, siamo qui. Beh, Natali. Cosa sono? Ecco, era un cugino.